RadioTube Social Network. Eccoci pronti per la seconda ora del nostro RadioTube. La prima ora è stata molto intensa. Abbiamo avuto Matteo Rovere, diciamo showrunner, perché nel gergo delle serie TV si dice così, regista, sceneggiatore, ma soprattutto ideatore del progetto di Romulus, che è iniziato ieri sera su Sky Atlantic ed è disponibile ovviamente in streaming. Poi abbiamo avuto Max Pezzali, che bello ritrovare Max Pezzali con il suo Qualcosa di Nuovo. Tiziano Ferro, che abbiamo incontrato qualche giorno fa e ci ha presentato il suo album e anche il documentario sulla sua vita, questo invece su Amazon Prime Video. E poi abbiamo concluso con un libro che a me ha colpito davvero tanto, che è Io sono mio fratello di Giorgio Panariello. Quanti ospiti nella prima ora, adesso iniziamo la seconda ora, che è quella di RadioTube Social Network, tutta l'attualità dalla rete, della rete come sempre, SMS, WhatsApp 349-238-6666. Ringrazio Claudio che ha molto apprezzato l'album di Tiziano Ferro, le cover sono canzoni che rimangono nel cuore, mi è piaciuto anche ritrovare Scialpi, sì, questa Cigarettes and Coffee era veramente bella, per questo volevo farne sentire almeno un pezzettino. Dicevamo 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp, ma anche i miei social sono @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. È il momento di dare il benvenuto al co-conduttore d'eccezione di questa settimana. Siamo tornati a distanza con Diego Castelli. Ciao Diego. Ciao. Abbiamo purtroppo speravamo di riuscire a strappare ancora qualche puntata col co-conduttore in presenza, ma torneremo caro Diego. Tornerai a trovarmi, a rifarti tutta la linea rossa della metropolitana per venire a trovarmi a Radio 24. Guarda, io aspetto qui a casa con i gatti, tranquillo. Con i gatti e non solo, ma riparleremo tra poco. Tra poco voglio sapere cosa hai combinato questa settimana. Intanto, insieme al tuo sodale Marco Villa, che saluto, al quale mando un abbraccio a distanza, davvero, quando si potrà vi voglio tutte e due in radio con me, avete pubblicato Serial Moments, i 20 anni che hanno cambiato la TV, edito da Utet. Tra poco ne parliamo. Ovviamente Serial Moments viene dal vostro Serial Minds, sito di riferimento da un sacco di tempo per quanto riguarda le serie TV. Bella avventura, bravo Diego, sono contenta. Grazie, siamo felicissimi. E per una volta tu racconti una roba che faccio io e non racconto io roba che fanno gli altri, e la trovo una cosa bellissima questa. Oh, bello. Poi mi piace molto la copertina con i popcorn, la bibita, il telecomando, manca solo la copertina e poi sono io. Allora, caro ecco. Diego, dai, parliamo un po' di quello che è successo questa settimana, tante cose belle, tante cose, insomma anche qualche cosa brutta, dai, iniziamo così. Famosissima, non è tanto ricordata, era una bella canzone che si intitolava Se c'è un posto del tuo cuore. Se c'è un posto nel tuo cuore, fatemelo dire bene, ed è stato forse il primo pezzo scritto e interpretato soprattutto da Stefano Dorazio nei Pooh, perché nei primi anni le voci erano sempre quelle di Roby Facchinetti, insomma, poi c'era Valerio Negrini all'inizio. A un certo punto poi proprio Stefano aveva avuto l'idea di dire: ma perché non cantiamo tutti un pezzettino? E anche questa è stata una grande idea dei Pooh, e questo è proprio il primo pezzo interpretato da lui. Ieri sera, quando è stata diffusa la notizia, intanto è partita dai social, per me è stato un brutto colpo. Perché io ero molto affezionata a Stefano, sono molto affezionata agli Amici per Sempre, ai Pooh, ho proprio un mi lega loro un sentimento di riconoscenza per quello che hanno fatto per la musica, per il pubblico, ma anche un po' per me, per Radio 24. Sono sempre state delle persone straordinarie e Stefano è venuto tante volte. Ecco, per me è stato veramente un colpo ieri sera. Diego, è pazzesco come queste cose poi in un momento facciano il giro della rete e ognuno reagisce a modo suo, però è impossibile non avere un colpo al cuore proprio forte in questi casi, eh? Guarda, secondo me ne abbiamo avuti anche troppi recentemente, cioè la reazione che vedo più diffusa sostanzialmente è: finirà questo 2020, perché insomma in tutti gli ambiti abbiamo dovuto gestire un sacco di problemi e di brutte sorprese. Questa è l'ennesima. In pochi giorni abbiamo perso un sacco di personalità importanti, molto amate, e su cui non c'era veramente nulla da dire di brutto, e quindi che devi fare? È una cosa così. Hai detto proprio bene, Diego, su cui non c'era niente da dire di brutto, cioè di una persona come Stefano D'Orazio, e tra qualche istante ovviamente parleremo anche di Gigi Proietti, e cioè si poteva solo dire bene, perché un uomo di una simpatia, di un'onestà, un uomo buono, ha scritto oggi Dodi e mi ha fatto venire una lacrimuccia. Ecco, persone come aver perso dei membri della famiglia, perché persone che non ci hanno mai deluso, che sono sempre state un punto di riferimento, anche se da lontano, perché insomma degli artisti coi quali non avevamo necessariamente un rapporto personale, privato, solo ad esempio nel caso di Stefano, noi giornalisti, io Gigi Proietti non lo conoscevo, l'ho incontrato dal vivo una volta sola, ci ho tenuto tantissimo, ci tenevo tantissimo, ero emozionatissima, però davvero come se fossero persone della famiglia che ti mancano, perché hai detto bene, persone di cui non si poteva proprio dire niente di male. Sì, perché viviamo comunque in un tempo anche strano, dove c'è molto revisionismo, no? Dove spesso e volentieri, a volte anche giustamente, si vanno a prendere personaggi o che non ci sono più, o che si sono ritirati dalle scene, o che fanno una qualche tipo di gaffe, e si va a recuperare la loro carriera precedente andando a cercare i punti oscuri, alle volte anche un po' morbosamente, no? E invece poi ci sono casi come Dorazzi e come Proietti, dove non c'è nulla di oscuro da andare a recuperare, e quindi da una parte è una cosa bella, dall'altra aumenta l'amarezza, se vuoi, non c'è veramente niente a cui appigliarsi per, tra virgolette, essere contenti, non si può. No, e quindi bisogna solo, cioè, non c'è proprio niente da dire, sono proprio cose... cose che fanno dispiacere tanto. Parlando di Gigi Proietti, ieri sera a Propaganda Live ha detto così uno dei suoi allievi, Flavio Insinna. Proprio in questo periodo di teatri chiusi, ma che prima o poi riapriranno, io vorrei dire una cosa ai più giovani, a chi magari si sta innamorando di questo mestiere, una ragazza, un ragazzino, o chi lo conosce poco e magari si è detto: ma perché si è fermato il mondo per questo signore? Ecco, i teatri sono chiusi, allora aprite i telefoni, i cellulari, i computer, i televisori, i CD, DVD, quello che è, c'è tutto il maestro. Io lui l'ho sempre visto come una meravigliosa fontana, ci abbiamo delle fontane bellissime a Roma, la più bella è lui, e continuerà a regalare, a sgorgare, a far sgorgare fuori le sue perle per tutta la vita. Io farei una legge. Un decreto legge, se può fare un disegno, direttore, un disegno, se può fare DPCM, secondo me per 100 anni io le barzellette del maestro Proietti le vieterei in pubblico, non si possono provare, le barzellette, stanno lì, consegnate da sua, c'è il genio, c'è l'originale, aprite i telefoni, guardate, andate, ma perché? C'è lui, tra 100 anni le barzellette, lasciate, perché già io magari mia madre diceva: ma questa la posso usare, lasciate stare, c'è lui, c'è il genio, c'è l'originale, c'è la fontana che continua a sgorgare. Bravo Flavio Insinna, ieri sera Propaganda. Allora facciamo una pausa per la viabilità, però in questo RadioTube diamo la viabilità con dei pizzettini di un video che questa settimana è ovviamente in tendenze, pubblicato ieri, ha già 278.307 visualizzazioni, Come eravamo versus Come siamo dei The Jackal. Come eravamo. Fratelli, gli uomini di Alba Longa hanno invaso le nostre terre! È guerra! Sì! Guiderò la battaglia a costo di morire! Paura! Seguitemi! Come siamo? Mamma, vuoi chiamare tu le pizze? Io mi metto paura. Gianluca, a 30 anni c'hai paura di chiamare le pizze! come eravamo. Sorella, un dardo nemico ti ha colpita. Aspetta. Non ho sentito nulla. Come siamo? Ma non ho ancora tirato. È fredda. Ma guarda che calda. Allora è calda. Senti, io vado. No. Radio Tube Social Network. E rieccoci ancora insieme con Radio Tube Social Network, con il nostro co-conduttore d'eccezione Diego Castelli, autore di Serial Moments, i 20 anni che hanno cambiato la TV, insieme a Marco Villa, edito da UTET. Ciao Diego. Ciao, ma mi piace che lo dici a ogni rientro. Lo so. C'è del professionismo, che fai le cose a caso. No, sai, sono anni di esperienza. Allora, caro Diego, però adesso vorrei un po' chiederti qualcosa in merito a quell'altro lavoro secondario, no scherzo, il tuo lavoro di tutti i giorni. Tu costruisci da un bel po' di anni i palinsesti. Da quanti anni fai questo lavoro? Da quanti anni giochi coi mattoncini delle costruzioni, dei programmi, dei palinsesti televisivi? Io sono a Mediaset da 12 anni, 12 anni sì, e prima ero Rete 4, ho fatto 5 anni di Rete 4 e invece sono a Iris, prima Iris, poi Iris e il 20, poi Iris e il 20 e Cine 34 da 7 sostanzialmente al 2013. Ti posso chiedere se è cambiato qualcosa nel tuo lavoro con il lockdown, cioè le tue programmazioni dei film, in particolare i tuoi canali si occupano di questo, sono cambiate con il lockdown prima, l'alleggerimento, la nuova fase con le zone, è cambiato qualcosa o il tuo lavoro segue lo stesso spirito? No, diciamo che non è cambiato tantissimo nel concreto, al di là di aver fatto qualche iniziativa specifica, soprattutto ai tempi della prima quarantena, dove eravamo tutti un po' sconcertati, ma al netto di questo no, devo dire che siamo andati avanti in maniera abbastanza simile. È vero che forse quando arriva il lockdown ci sembra quasi necessario mettere in onda un pochino più di cose leggere, magari, così per risollevare un po' lo spirito, però ti dico è veramente una sfumatura, non è una cosa su cui abbiamo fatto il mio lavoro. Se poi è cambiato perché lavoriamo da casa da mesi e quindi come a tanti sta capitando, anch'io sono a casa tutti i giorni, che è un pochino complicato per il fatto di non poter parlare con i colleghi. Noi normalmente siamo in ufficio in 9, quindi viene a mancare un pochino di non solo di contatto umano ma anche di scambio di idee, però devo dirti che poi per il resto tu lo sai benissimo che a me piace anche stare a casa mia, quindi da quel punto di vista lì non è che mi posso lamentare. Sono fortunato, sono geneticamente fortunato da quel punto di vista lì, e però no, nel complesso il lavoro è ancora quello e quindi va bene. Quindi i film, quelli che io adoro e che segnala sempre Dago Spia, quelli un po' che programmate la sera tardi, non è che li programmate perché la gente sta di più in casa, li programmate? No. Li avreste programmati lo stesso? Sì, no, programmiamo le cose più o meno sono le stesse. La cosa che è cambiata è che noto che più gente mi scrive, amici, conoscenti, mi scrive per dirmi: ah, mi piace quel film lì che hai messo stasera, oppure ma che brutto film che hai messo, perché evidentemente stanno a casa di più. Quindi hai il tuo auditel personale. Ho la percezione del fatto che i miei amici stanno a casa di più perché vedono roba che metti in onda. La soddisfazione di conoscere quello che ha programmato il film e dirgli mi è piaciuto o non mi è piaciuto è impagabile. Spesso capita che appena lo sanno, se una persona nuova che mi conosce, che sa che faccio questo mestiere qui, mi chiede: ma quindi posso chiederti di mettere in onda una cosa? No, no, non si può, anche perché c'è questa misconception, se possiamo dire così. Tutti pensano che possiamo mandare in onda qualunque cosa. Dai, ti prego, spieghiamola questa cosa. Anche se è un po', per citare una trasmissione di Radio 24, alla quale partecipa anche il nostro regista in questo momento, che Andrea Roccabella, anche se è un po' off topic, ride Andrea, spieghiamola questa cosa. Cioè, tu non è che puoi mandare in onda tutto. No, è anche il motivo per cui poi le persone si lamentano del fatto che magari vedono più volte in onda lo stesso film. Noi non possiamo mandare in onda tutto. Come Mediaset abbiamo una library di film che deriva dall'aver sottoscritto dei contratti con le case di distribuzione. Alcuni film ce li abbiamo sempre e per sempre e altri film ce li abbiamo per un tempo limitato e poi magari il contratto può essere anche rinnovato. Però quindi Mediaset ha alcune migliaia di film e però quelli sono, e all'interno della library di Mediaset io e nei miei canali posso sceglierne evidentemente solo una parte limitata, perché poi ci sono Canale 5, Italia 1, Rete 4, non abbiamo tutti film diversi, per cui sarà sicuramente capitato a qualcuno di vedere un film che va su Italia 1 e poi magari va sul 20 due mesi dopo, questo è abbastanza normale. Però il lavoro si fa su quelli lì, poi nel corso degli anni questi film possono cambiare, alcuni possono uscire, alcuni possono entrare, eccetera. Però se uno mi viene a chiedere perché non mi metti in onda, che ne so, Ricomincio da capo con Bill Murray, non ce l'ho Ricomincio da capo, lo vorrei mettere in onda, non ce l'ho. E no, infatti ad esempio questa settimana in rete è successo molto, appunto con la scomparsa di Gigi Proietti, c'erano, non so, su Twitter persone che dicevano se non mandano in onda questo film sono matti, ovviamente spesso le critiche vanno alla RAI essendo servizio pubblico, se la RAI non manda in onda questo e magari però non ha i diritti, perché magari anche la RAI è la stessa cosa, alle volte ce li scambiamo anche, può capitare, perché poi sì c'è concorrenza ma non è che ci si odia, e può capitare che la RAI chieda a Mediaset un film che magari Mediaset ha in diritti perpetui, come si suol dire, cioè è sempre e sarà sempre Mediaset, lo chiede per magari due mesi, possiamo farlo per piacere, e noi gli diciamo sì, magari c'è uno scambio di qualcosa, magari è così, però funziona in questo modo qua, quindi non possiamo tutti mettere in onda qualunque cosa. Come mi piace svelare i segreti, perché a volte non sono segreti, però a volte sono dei meccanismi per cui lo spettatore non sa e giustamente dice ma perché questo film non lo possiamo vedere? Perché c'è una questione di diritti. Come l'altra grande, meravigliosa. È che tutti, ma anch'io, prima di studiare, andare all'università, tutti pensano che l'Auditel funziona che se io vado su un canale sto dando ascolti a quel canale lì. Invece la gente tipicamente non sa che non funziona così, perché ci sono solo, è una cosa statistica, ci sono solo alcune persone che ricevono lo strumentino che registra il famigerato people meter. E invece, quando di solito dico questa cosa, poi dice Ma allora quello che guardo io non conta niente. O se ne fregano a quel punto di guardare cose di cui si vergognano e dicono allora posso continuare, oppure dicono no, ma io stavo cercando di dare degli ascolti a quello lì che mi sta simpatico e non funziona così. Allora invece vorrei farti sentire un pezzettino di quello che è successo ieri sera, l'altra sera, a X Factor, ecco qua. Dopo essere stati presentati mille volte da lui per la prima volta nella storia di X Factor, i giudici hanno l'onore di restituirgli il favore. Signori e signore, direttamente da casa sua, il nostro capitano Alessandro Cattelan! Buonasera a tutti! Come stai, Ale? Ciao, Ale! Bene, ragazzi! Cioè, no, bene non è vero, però mi mancate e sono felice di vedervi. Voi come state? Ci manchi. Eccolo qua, allora, Alessandro Cattelan, in realtà era il suo volto trasmesso da un tablet fissato sul corpo di un ballerino. Alessandro Cattelan bloccato a casa dal Covid, mi stavo confondendo, sto dicendo ieri sera, perché invece ieri sera c'è stata la puntata di Tale Quale Show condotta dai giudici, perché ahinoi anche Carlo Conti purtroppo è stato anche ricoverato in questi giorni, ma leggiamo che le sue condizioni sono in miglioramento. Ecco, ti chiedevo appunto, Diego, il tuo lavoro cambia poco, ma il lavoro dei televisivi in questo momento invece può cambiare molto. Sì. Può cambiare è complicato, ma anche perché, per esempio, ti dicevo, io sono rimasto a casa, cioè posso lavorare da casa perché il mio lavoro è fatto sostanzialmente di file Excel e di telefonate. Chiaramente chi deve andare, perché chiaramente le trasmissioni TV se no non si fanno, quindi da chi sta davanti alle telecamere a chi sta dietro, lì diventa un lavoro più complicato, con molte procedure adesso per farlo in sicurezza, insomma non è semplice, però per quello che posso vedere io, che non è che ho una visione diretta su queste cose qua, vedo comunque molto, molto entusiasmo, molta passione per cercare di non far mancare niente al pubblico. E poi secondo me se si inventa anche cose carine come quella che ha fatto Cattelan di mettersi la faccia faccia su un ballerino, tra l'altro mica sì, sì, infatti, perché così il ballerino ballava, faceva il figo. L'idea è stata molto carina, sì. Sì, è stato molto carino, quindi vedi, c'è anche spazio comunque per inventarsi qualcosa, così nella sfortuna generale, però se si ha un po' la voglia, la possibilità di inventarsi anche qualcosa di nuovo, perché no? Allora, noi facciamo una breve pausa, sempre con i The Jekyll, ma prima della pausa vorrei dirvi che è arrivato Enrico Pagliarini in regia, correndo dicendomi: apri le agenzie, c'è un flash. È vero, il flash dice che secondo la CNN Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Come eravamo? Madre Vesta mi ha parlato attraverso il fuoco sacro. Sei uomo valoroso. Ne sono orgoglioso. Come siamo? E tu di che segno sei? Scorpione. Si vede. Da che cosa si vede che sono scorpione? Scusa. Tipica reazione da scorpione, tutti uguali. Ma tutti uguali, che cosa? Come eravamo? Ecco a te, il tuo settimo figlio. Proprio il giorno del tuo sedicesimo compleanno. Questa responsabilità è un dono. Come siamo? Fru, mi hai fatto morire la piantina che ti abbiamo regalato. Vabbè, però un po' è durata stavolta. Ma ieri te l'abbiamo regalata. Ma non potete darmi tutte queste responsabilità a me. Ma è a finta. Me mi date delle piante. È finta, ho capito che è finta. Non lo so come si sarà suicidato. Radio Tube Social Network. Allora, questa è Baby Yoda di Jonathan Mann. Chi è Jonathan Mann? Jonathan Mann è un ragazzo che dal 1 gennaio 2009 scrive una canzone al giorno. Cioè lui ogni giorno scrive una canzone e la mette su YouTube. Questa è forse la sua più famosa, la canzone di Baby Yoda. Ma perché abbiamo questa Baby Yoda, Baby Yoda? Perché il nostro co-conduttore d'eccezione è Diego Castelli. Ciao Diego, bentornato. Ciao. Sì. Allora, channel manager di Risti, canale 20, inventore insieme a Diego Castelli di serialminds.com e autore. Diego Castelli insieme a Diego Castelli diventa un film egocentrico. Beh, e ti lamenteresti no, adesso con tutto l'amore per Marco Villa. Guarda che ti conosco, non credere, ma io ti conosco. Autore con Marco Villa di Serial Moments, 20 anni che hanno cambiato la TV. E ma perché Baby Yoda? Cos'hai combinato questa settimana? Perché io ti ho visto su Facebook. Chi è arrivato a casa tua? Mi hai visto su Facebook e finalmente, dopo un anno dall'uscita della serie The Mandalorian di Disney Plus, finalmente è diventato disponibile il pupazzetto di Baby Yoda, che ricordiamo che in realtà si chiama The Child. Baby Yoda è un po' nome d'arte. The Child, è uscito questo pupazzo che ha le pile, si muove, fa un sacco di movimenti e di cose, costa uno sbradello, ma uscito, ma infatti io me lo sono chiesto ma non volevo chiedertelo. Però io so che quando, cioè, che è un po' come quando io vedo una borsa esosa in una vetrina. Ma aspettavo da mesi, è arrivato, l'ho fatto partire, ha fatto gnè per 2 minuti, ora sta fermo sulla mensola e starà lì per sempre. Non è che devo farci niente, perché non devo farci giocare nessuno. I gatti sono abituati, erano terrorizzati, li ho visti su Facebook. I gatti erano un filino terrorizzati all'inizio, però devo dire che poi l'hanno accettato nella famiglia. Ok. Quindi, come l'arrivo di un nuovo cucciolo, diciamo così. Vabbè ragazzi, qui siamo a livelli. Però Mandalorian, serie recente, non c'è ancora in Serial Moments, i 20 anni che hanno cambiato la TV, Ci sono un bel po' di... Perché forse non ha cambiato la TV. Per non ancora, non ancora. Non ancora, poi la TV, non va in TV, se vogliamo proprio essere precisi. Sì. Beh, oddio, però nelle vostre serie ce ne sono anche che non... Sì, tra TV. Vabbè, ormai diciamo TV perché possiamo vederlo anche nello schermo televisivo. Sì, allora, facciamo quasi letterale, televisione, ecco. Veramente. Sì. Beh, ragazzi, qui è proprio, cioè, l'etimologia... Sono spettinata da questa etimologia, sono diventata bionda. Allora facciamo un salto veloce negli Stati Uniti, andiamo a sentire cosa sta succedendo, perché abbiamo letto qualche minuto fa la breaking news, appunto, secondo cui la CNN ha annunciato che Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ci colleghiamo con gli Stati Uniti, abbiamo Marco Valsania. Sì, Marco, eccoti. Buongiorno. Allora, ci aggiorni, cosa sta succedendo? Ma sì, sta succedendo quello che tutti ormai si aspettavano, cioè i desk elettorali dei grandi network televisivi, che sono, ricordiamo, separati dalle newsroom, quindi diciamo non è una decisione giornalistica, ma una decisione così che diventa collettiva dei desk diciamo elettorali delle grandi TV e dei grandi centri elettorali. Stanno a questo punto chiamando l'elezione, e quindi ufficialmente da CNN a NBC Biden da questo momento è presidente eletto degli Stati Uniti. Le chiamate sono arrivate dopo una serie di risultati sempre più di conteggi dei voti sempre più favorevoli a Biden, in particolare in Pennsylvania, dove sta crescendo il suo margine di vantaggio. Ricordiamo, la Pennsylvania già da sola basterebbe a consegnare le chiavi della Casa Bianca di fatto a Biden, portandola alla maggioranza del collegio elettorale con 273 grandi elettori, oltre diciamo la soglia di successo, che è di 270 grandi elettori. Ma Biden è anche sempre più in vantaggio anche in Nevada, dove sono in gioco 6 grandi elettori, è in vantaggio in Georgia con 16 grandi elettori. Diciamo più incerto diciamo la situazione ancora in Arizona, ma appunto a questo punto i grandi network TV americani hanno dopo diciamo lunghi giorni di prudenza hanno chiamato il risultato elettorale, hanno dato il responso delle elezioni, Joseph Biden presidente eletto battendo Donald Trump. Tra l'altro, Marco, approfitto della tua presenza per chiederti anche di Donald Trump, perché un'ora fa lui ha twittato, tutto in lettere maiuscole, I won this election by a lot, cioè ho vinto queste elezioni di gran lunga. Ovviamente Twitter ha messo il punto esclamativo che quando questo era stato questo tweet è stato pubblicato, le fonti ufficiali non avevano dichiarato alcun tipo di risultato. Che cosa sta succedendo in rete? In questo momento questo tweet ovviamente ha 186.000 risposte, 223.000 retweet e in questo momento 300.000 cuoricini, ma 301.000, cioè stanno impazzendo ovviamente i social network. Marco, mi racconti cosa sta succedendo con Donald Trump? Chiaramente diciamo a questo punto è la grande incognita di come Donald Trump diciamo prenderà questo tipo di sviluppo. Non è chiaro quanto faciliterà o complicherà una transizione di potere a un'amministrazione Biden, o quanto ancora cercherà di far ribaltare diciamo il risultato cercando di lanciare nuove sfide legali diciamo alla legittimità del voto, cercando di mettere in dubbio la qualità del voto e denunciando brogli elettorali. Al momento sembra difficile che questa strategia davvero possa portare a un ribaltamento dell'esito elettorale, ma lascia appunto grandi incognite su quello che aspetta l'America nei prossimi giorni e settimane, ore, giorni e settimane, in termini appunto di tensione politica e nel paese, che sicuramente si riflette sui social network. Ricordiamo che su Twitter Trump ha un seguito di 80 milioni di seguaci, quindi diciamo ha costruito un enorme seguito diciamo su Twitter e in generale sui social network, ha continuato, come ricordavi, a rilanciare la propria tesi secondo cui è lui in realtà il legittimo vincitore di queste elezioni, perché appunto ha denunciato un complotto di fatto non meglio precisato di funzionari elettorali in stati sia democratici che repubblicani, media, Partito Democratico, elite di varie, ha denunciato diciamo un complotto per strappargli la presidenza. È una strategia che non gli sta dando al momento particolari risultati. Mm-mm. Anche in alcuni ambienti repubblicani hanno cominciato diciamo a emergere resistenze alle sue accuse, alla sua ai suoi attacchi, no, che sono anche stati, diciamo così, censurati come attacchi alla democrazia vera e propria, al sistema elettorale americano vero e proprio. Però appunto resta adesso, a questo punto, dopo questo sviluppo, questa svolta al momento su Joseph Biden, dichiarato 46esimo presidente eletto degli Stati Uniti, resta la grande incognita, la grande ombra di cosa farà a questo punto Donald Trump. Grazie a Marco Valsania per questa diretta così un po' impromptu, però noi siamo sempre sulla notizia. Grazie Marco. Intanto la Fox non ha ancora chiamato, come dicono gli americani, la vittoria di Joe Biden. In fieri, ne parleremo ovviamente nelle prossime edizioni, tutte le edizioni di GR24 in diretta qui a Radio 24 fino a mezzanotte. Ma torniamo alla nostra scaletta di RadioTube. Ascoltiamo un brevissimo audio. Abbiamo questa sigla, ce l'abbiamo, eccola. Benvenuti a Basement Caffè. Allora, il programma Cult, che ha veramente un sacco di visualizzazioni su YouTube, ma non è una cosa che si dice perché c'è scritto su un comunicato stampa. Davvero, davvero, andate a vedere quante visualizzazioni ha questo format che si chiama Basement Caffè, che torna con la terza stagione, con il suo autore, ma anche conduttore, Antonio Di Chele Di Stefano. Ciao Antonio! Ciao, come state? Guarda, qua oggi giornata vivace, caro Antonio, sì. Abbiamo bisogna rincorrere le notizie, ma ci diverte particolarmente. Antonio, devo dirti una cosa, questo format di interviste, e adesso ti chiederò qualcosa di più, è veramente molto amato dai ragazzi, perché io ho anche i miei nipoti che mi dicono: ah, ma sai che il tale artista ha fatto questa intervista? L'ho visto a Basement Caffè. Perché i ragazzi, noi dei mezzi tradizionali, magari facciamo un po' fatica a intercettarli al volo, e invece il vostro cioè, sono vostri, non c'è niente da fare, cioè il vostro pubblico di ragazzi vi è fedelissimo. Sì, ma sì, sai, io penso che il trucco sia riuscire comunque a dare a questi ragazzi un prodotto di qualità, no? Spesso quando si pensa ai giovani e si vogliono fare delle cose per i giovani, si pensa sempre a contenuti veloci, svelti, magari fatti anche con poco amore. Invece Basement Caffè by Lavazza è proprio l'opposto, no? Portare sul web, dove comunque ci sono dei prodotti che non hanno un taglio televisivo, non hanno un taglio di alta qualità, portare sul web due cose: un contenuto con un taglio televisivo e che sia per i giovani. E questa cosa per me ha vinto. Ospiti pazzeschi, come li scegliete? Sì. Perché il taglio è un taglio particolare, e adesso nella nuova stagione, in cui arriva anche Sofia Viscardi, amatissima dai ragazzi, si accende anche un faro in più. Sì, ma sai, il faro in più è il futuro. L'argomento di questa stagione è stato il futuro, quindi raccontare e chiedere ai nostri ospiti come si immaginavano e cosa si aspettano da questo futuro, no? Oggi che è sempre più incerto, però cercando comunque di dare sempre una visione positiva. La scelta degli ospiti, ti dico, nelle prime stagioni è sempre stata legata all'avere qualcosa da dire, no? Perché spesso prima noi siamo partiti che avevamo un taglio molto rap, e quindi uno dei nostri obiettivi era quello di far capire al grande pubblico che questi artisti spesso demonizzati avevano qualcosa da dire ed erano menti pensanti. Poi nella seconda stagione abbiamo invece preso delle grandissime menti pensanti come Enrico Mentana, Stefano Mancuso, eccetera eccetera. Però credo che l'obiettivo e la caratteristica che un ospite deve avere è avere qualcosa da dire. Beh, non è poco. Allora facciamo una cosa, brevissima pausa, e poi ho ancora una domanda da fare a Antonio, ma voglio chiamare in causa anche Diego Castelli tra pochissimo. Come eravamo? E dopo due mesi di cammino tornerò con la risposta, Cyrus. Aspetterò anche Aniruzus, che gli dei mi siano testimoni. Come siamo? Cioè, le ho scritto 3 minuti fa, ancora non mi risponde. Ciro, è buono, dai. L'attesa è la cosa più difficile. Ma è online da 5 minuti. Come eravamo? Un branco di lupi si avvicina al villaggio! Come siamo? Di là c'è uno scarafaggio! RadioTube Social Network. Ultimi minuti del nostro YouTube Social Network, sempre con il nostro co-conduttore Diego Castelli e con il nostro ospite Antonio Di Chele Di Stefano. Diego, con Basement Café è impressionante come riescano a colpire davvero la generazione Z, gli ospiti giusti, il linguaggio giusto. La televisione non c'è ancora riuscita, chissà se ci può riuscire. Tu che ne dici? Ma io penso che, allora, ho visto qualche puntata del programma, anche se la mia cultura rap all'epoca e tuttora è scarsissima, ma una cosa che mi piace molto, è vero che c'è una costruzione che è effettivamente più professionale rispetto alla normalità magari di certe cose che si vedono sul web, però quello che ha conservato del web secondo me è una grandissima immediatezza, cioè il fatto che ci si senta veramente tra amici, ci si senta veramente a casa nel vedere Antonio con gli ospiti, e secondo me è una cosa che in televisione non si vede tanto e che colpisce. Poi sicuramente è come se le forme della televisione fossero ancora forti, non è che non funzionano più, è solo che quando vanno in televisione da un certo pubblico vengono considerate vecchie. Se invece prendiamo quelle forme e le modifichiamo appena giusto un po' per farle funzionare in generale, poi le si mette sullo strumento che ai giovani piace e te le guardano comunque. Cioè secondo me c'è una universalità di alcune tecniche televisive che semplicemente si devono shiftare, devono andare da un'altra parte, ma funzionano anche lì, e secondo me loro questa cosa l'hanno colta molto bene. Antonio, che dici? Dico che ha totalmente ragione, che ha colto. Ma sai, immediatezza comunque credo che sia anche sinonimo del web, no? E quindi noi, l'obiettivo nostro è quello di essere più semplici possibili. Poi ti dico, la speranza in futuro, chi sa mai, è quella di riuscire a portare un format come questo anche in televisione ad un pubblico un po' più largo e generalista. Non sarebbe male, perché penso che manchi una cosa del genere in televisione. Poi comunque l'obiettivo nostro resta comunque quello di fare cultura, perché il cinema e i film sono la struttura che poi porta avanti le interviste, quindi molti ragazzi finita una puntata scoprono film, attori, scene di film che non avevano mai visto, quindi questo, oltre a parlare di rap, è anche un modo per parlare di cultura in generale. Io poi voto Antonio Di Chele Di Stefano in televisione perché è un figo, mi piacerebbe tantissimo. Sono no, beh, la mia obiettività in questo è nota, era solo, era una approvazione, un apprezzamento assolutamente tecnico, niente di che. Antonio, un abbraccio, in bocca al lupo per la terza stagione, benvenuta anche a Sofia Viscardi che ti affiancherà in questa avventura, e a presto. Grazie Antonio, presto. In bocca al lupo, a presto. Grazie mille, ciao. Allora, Diego, classe 1992. Mamma mia, ma infatti volevo anche dire quello, che in realtà sarebbe anche bello vedere in televisione un under 30 che conduce veramente. Non sarebbe male, proprio come simbolo, diciamo. No, guarda, io non sono per la staffetta generazionale a tutti i costi, perché no, a me va, non a tutti i costi. Perché mi piace in televisione il grande saggio, mi piace il quarantenne moderno, mi piace il trentenne rampante, mi piacciono tutti. Però effettivamente anche uno del 92 secondo me, no, ma poi potrebbe, dire, cominciare a starci. Cioè, un conto è prenderne uno che è giovane e metterlo lì solo perché è giovane. No, in questo caso c'è una persona che ha fatto una gavetta da un'altra parte e che ha dimostrato di essere capace, e allora magari lo si può mettere anche in televisione. In quel senso lì, secondo me, ha senso. Sì, infatti. Allora, un brevissimo audio tratto da una story di Instagram. Io sono impazzita. Eccola qua. Amore, sei contento che andiamo al museo a vedere l'arte e le statue? Sì, mamma. E cosa ti piacciono più, i quadri o le statue di solito? Quadro. Quadri? Sì. Andiamo a vedere la Pinacoteca di Brera. Andiamo, amore, vieni. Sei contento? Quella signore. Pazzesco, ti piace? Sì. Allora, io posso passare la vita, l'ho già detto più volte, solo a guardare le stories e i reel con Leo, con Leone, il figlio di Chiara Ferragni e di Fedez, e lo amo, e io posso veramente passare le ore. Ma Chiara Ferragni, che a poche ore dall'istituzione della zona rossa in Lombardia, cosa fa? Prende Leone e lo porta alla Pinacoteca di Brera per fargli vedere i quadri. Io trovo che sia una donna pazzesca. Ah, ragazzi, cioè, ma voglio dire, Ma che esempio straordinario dà? E poi dice: ho promesso a Leone che lo riporto appena i musei saranno riaperti. Chapeau. Allora, per me, chapeau. Tu cosa dici, Diego? Io dico che lo sai che a me di Chiara Ferragni interessa veramente poco in strano, generale, perché però... tu sei un fashion addict. È vero. No, però sulla questione musei che parte da lontano di Chiara Ferragni non si può non essere completamente dalla sua parte, nella misura in cui a un certo punto la gente la insultava perché era andata al museo. Ma sei fuori, ma chi se ne frega, ma non può andare al museo. E il fatto che lei usi comunque adesso la popolarità che ha per comunque allargarsi anche ad altri ambiti e far entrare nel suo mondo, a volte percepito anche erroneamente un po' frivolo, delle cose diverse, ma sempre con leggerezza, sempre con affabilità, secondo me è molto bello e funziona. Sì, poi davvero, no, ma la scena che chiede a Leone se gli piacciono più i quadri o le statue, lui dice quadri, beh, straordinario, è proprio tenero, bello. Non è giusto guardare un bambino così esposto, non si fa, non mi piace per niente questo speculare sui bambini triste. Allora, è suo figlio, loro sono esposti proprio come famiglia, cioè noi da piccoli guardavamo sui rotocalchi le foto degli attori, le foto, no, secondo me non stanno speculando, è il loro modo di vivere, fanno vedere delle cose tenere, no, io sono una grande fan di Leone e le cose vanno, secondo me va visto tutto con cum grano salis, sapendo cosa, come, in che modo si sta guardando, verità, e loro sono genitori la bravi. È che tu non vedi l'ora di sostituirmi con Leone come co-conduttore. Vabbè, ma aspetti solo che sia maggiorenne. Sì, perché io sarò ancora qua, ma lasciamo perdere. Ma Diego, sicuro, ma tu sei eterna. Certo, fammi fare tutti gli scongiuri del caso. Diego, fammi ricordare per l'ultima volta Diego Castelli, Marco Villa, Serial Moments, i 20 anni che hanno cambiato la TV UTET. Dai, magari prima di Natale rifacciamo una puntata nella prima ora in cui parliamo di serie TV e ci dai tutti i consigli, ok? Assolutamente, io sempre qua. Dai, sono molto contenta. Devo fare velocemente i ringraziamenti. Grazie Alessandro Schirano, grazie ad Andrea Roccabella. Ci ritroviamo domattina con RadioTube l'intervista. Abbiamo i Maneskin. Grazie appunto a Diego Castelli. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao! Come eravamo? Frus, vedo che le tue ferite stanno guarendo. Porto notizie di grande giubilo. Prenderò in sposa Clara il prossimo solstizio d'estate. Ecco la pergamena con l'invito. Ah! Il dolore al ginocchio, non posso non venire. Non è riferito al braccio. Pure il braccio, Non temere, Ruzus. I figli dei tuoi figli saranno migliori, coraggiosi, valorosi, audaci e... Come siamo? E questo è l'invito al mio matrimonio. Ah, che dolore nel braccio!